Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. È il 26 ottobre 1921, Aquileia, interno di una chiesa. Una popolana di 54 anni, Maria Bergamas, vestita di nero, uno scialle in mano, si trova davanti a 11 bare. Si regge in piedi a fatica, trattiene a stento le lacrime, fa scorrere attonita lo sguardo da una bara all'altra. Sta per svolgere un compito di altissimo valore. Deve scegliere tra gli 11 corpi chiusi in quelle bare quello che rappresenterà il milite ignoto, il corpo che verrà sepolto nel Vittoriano di Roma, in memoria di tutti i soldati italiani deceduti durante la Grande Guerra e rimasti senza nome. La scelta della donna chiamata a questo doloroso compito non è stata facile. La commissione incaricata dal governo italiano inizialmente aveva indicato una madre di Udine, Anna Visentini Feruglio, che aveva perso due figli in guerra, uno dei quali decorato di medaglia d'oro al valor militare. Poi però si decise di far cadere la scelta su una popolana. Si pensò a una madre livornese che si era recata a piedi da Livorno a Udine alla ricerca del figlio disperso. Poi a una donna di Lavarone che, saputo dove era tumulato il figlio, era andata al cimitero, aveva rimosso con le mani la terra e portato via le ossa del figlio per riporle nel cimitero del suo paese, accanto a quelle del marito. Venne scartata anche lei. Così come un'altra madre che aveva avuto la forza di assistere a oltre 150 esumazioni pur di trovare i resti del figlio. Infine la scelta si indirizzò verso la madre di un disperso irredento, Maria Bergamas, una popolana di Gradisca di Isonzo, madre dell'irredento Antonio Bergamas, sottotenente decorato di medaglia d'argento al valor militare, caduto sul Monte Cimone il 18 giugno 1916, all'età di 25 anni. Tonio. Tonio. Aiutami, Tonio mio bello. Dammi un segno. Fammi capire dove sei. Dove sei, figlio mio? Qual è il tuo corpo? Quale di questi? Io così non posso riconoscerti, amore mio. E come potrei? Ho chiesto di poter guardare gli 11 corpi anche solo per un attimo, ma il generale non me l'ha concesso. Ha detto che per me sarebbe stato un dolore inutile, che saresti stato comunque irriconoscibile. Irriconoscibile. Come può il corpo di un figlio essere irriconoscibile per una madre? Per riconoscerti, amore mio, mi sarebbe bastato un minuscolo lembo di carne, un capello, un'unghia. Oh, Tonio. Tonio, che cosa ti hanno fatto? Chi ti ha ucciso? Nessuno me l'ha mai saputo dire, ma io ho bisogno di saperlo, Tonio. Ho bisogno. So come sei nato, so come sei cresciuto, devo anche sapere come sei morto. Se no, che senso avrebbe il mio essere madre? Il senso? Tu cerchi il senso delle cose, mamma. Me l'hai insegnato tu, Tonio. Tu che non ti sei mai accontentato di quello che ti dava la vita, che hai sempre detto che volevi capire, capire. Ora sono io che voglio capire. Resterai delusa, mamma. Perché? Perché la vita un senso non ce l'ha. Niente ha senso. La guerra non ha senso, il coraggio non ha senso, l'eroismo non ha senso. Questa cerimonia non ha senso. Che cosa dici, Tonio? È la scelta del milite ignoto, un momento sacro. L'omaggio della patria ai suoi figli più sfortunati, quelli che hanno perso non soltanto la vita, ma anche l'identità. Mi ha detto il generale che il milite ignoto viene già celebrato in Inghilterra, viene celebrato in Francia. Adesso lo celebreremo anche in Italia e saremo noi due, tu ed io, a onorare l'evento. Io ne sono orgogliosa, Tonio. È l'unica consolazione che mi resta, l'unico conforto, il solo modo per rendere più lieve il dolore per averti perso. Ma quale conforto? Quale consolazione, mamma? Anche questa cerimonia è un inganno, come la guerra, come i discorsi dei generali, le promesse dei politici, come le parole del re. Tutto è un inganno. Ma cosa dici, Tonio? Ti hanno fatto credere che tra questi poveri corpi messi in fila ci sia anche il mio. E tu ora mi stai cercando. Pallida e tremante, non sai quale bara indicare, quale corpo immolare sull'altare del milite ignoto. Mi stai cercando con gli occhi del cuore, ma io non sono tra quei corpi. Il mio cadavere è sotto la terra del Monte Cimone. Giace là in una fossa comune da almeno 5 anni, sepolta tra decine di altri corpi, introvabile. E sì, irriconoscibile. Il generale aveva ragione. E poi pensaci, mamma. Che milite ignoto sarebbe se tu riuscissi a dare un nome al corpo che verrà sepolto al Vittoriano. Ti stanno ingannando, mamma. È tutta retorica, propaganda. Non parlavi così una volta. È questo l'effetto che fa la morte? Stravolge i sentimenti, rinnega i pensieri, muta i caratteri. In vita sei sempre stato ottimista, spavaldo, entusiasta. Mazzini, l'irredentismo, l'amore per la tua patria bella. Per mesi ci hai riempito la testa con queste parole. Io neanche sapevo che cosa volesse dire la parola irredentismo. Sono una popolana, non ho studiato. Non ho mai letto né libri né giornali. E quando parlavi di irredentismo io non capivo. Neanche sapevo che cosa fosse questa strana parola, irredentismo. A poco me l'hai spiegato aprendomi gli occhi. Sei diventato grande ripetendo sempre lo stesso concetto. Io non sono austriaco. Io non sono austriaco. Dicevi, sin da quando eri bambino a Gradisca, dove sei nato. Sono italiano, sono italiano. Italiano. Declamavi impettito. Per questo quando l'Austria ti ha chiamato alle armi, hai disertato e sei passato dall'altra parte, dalla tua parte, nell'esercito regio d'Italia. Eri fiero della tua scelta, orgoglioso di combattere per la tua patria. E noi eravamo orgogliosi di te. Io, tuo padre e tua sorella, te lo ricordi, Tonio? Sì. Sì, mamma, ricordo. E rifarei tutto. Io sono italiano. E sono morto da italiano. Da irredento. Come Cesare Battisti, come Guglielmo Oberdan, Fabio Filzi, Damiano Chiesa, Carlo Stuparic. Sono morto in battaglia come volevo. Mentre andavo all'assalto, colpito al petto dalla mitraglia. Ma non è questo. Non è la morte il mio rimpianto. Un altro è stato il grande inganno che ho subito. Quale inganno, Tonio? Fammi capire. La guerra, mamma. Mi ha ingannato la guerra. La guerra? Che cosa intendi? Ti ha ingannato, ti ha deluso la guerra? E che cosa ti aspettavi? Una guerra diversa, mamma. Una guerra che meritasse di essere combattuta. Sognavi una guerra buona? Le guerre sono guerre, Tonio. Tutte uguali. Non esiste la guerra bella e non esiste la guerra buona. Una guerra buona, no. Ma una guerra dignitosa, sì. La pretendevo. Io sognavo battaglie in campo aperto. Scontri alla baionetta. Atti di coraggio, eroismo, dedizione. Sono partito per il fronte, avendo nella mente il risorgimento. Garibaldi, i cacciatori delle Alpi, Curtatone, Montanara, Emille. Sognavo una guerra di uomini. E invece mi hanno costretto a una guerra di topi. Una lurida, schifosissima guerra di topi. Una schifosissima guerra di topi. Topi, mamma, topi. Cos'altro sono se non topi? Uomini obbligati a stare per giorni, per mesi, per anni, in trincea, sottoterra, nel fango, nel freddo, nella merda, nella puzza di quella merda. In trincea, ripiegati in due, appoggiati a sacchi di sabbia inerti, senza potersi lavare, senza potersi muovere. Accanto il cadavere putrescente di un commilitone. Il sangue, le ossa rotte, le mosche, i vermi. Lo sguardo fisso sulla punta degli scarponi e in testa una sola preoccupazione. Quella di non sporgersi, di non fare luce di notte neanche con un fiammifero, perché là fuori, in una trincea austriaca, c'è un altro topo. Un topo nemico che aspetta solo di poterti sparare. È il topo cecchino, il tiratore vigliacco, simbolo di una guerra vigliacca, il cui nemico è invisibile, è lontano. Shh! Silenzio, giù! Sì. Non farti vedere. Sì. Riparo, su, sotto, sotto. D'accordo, shh, d'accordo. Silenzio, silenzio. Guarda, ciao. Non aspettare. Shh! Diva, danza. Basta. Finisci, basta. A Vittorio, giorno. Basta. Sono stanco della trincea. Sono stanco di tutto. Da quanti giorni non mangiamo? Voglio dormire. Magari. Pensa che ieri sera mi sono riposato in una galleria appena sotto la prima linea. Sì. Ma è stato un patimento. È stata comunque una fortuna poter stare al riparo dalla morte, ma vestiti come siamo, tutti armati, maschere antigas, il tascapane con la baionetta, le bombe. Mi manca l'aria. È stato un patimento indescrivibile. Sì. Guarda, quando non ne posso più, quando mi manca l'aria, anche me manca. Penso di uscire dalla galleria all'aperto. Ma no. Ma fuori, è pericoloso. Fuori c'è la morte in agguato. Appunto. E allora cambio idea. Qui è pieno di pidocchi. E tutti questi insetti mi danno anche fastidio. È pieno di topi. Via. Dove? Via. Passano e ripassano. Si dice che non mangiano formaggio. Che si cibano di cadaveri. Io non ce la faccio più. Io ho paura. Non ci voglio stare qui. Io ho paura di morire, altro che eroi di guerra. Io me la faccio addosso. Questa è la guerra che mi hanno fatto fare, mamma. Una guerra di topi. Sul Carso non c'è stato niente di sacro, niente di eroico. Non è vero, Tonio. Anche restare nascosti in trincea è un atto di eroismo. Non è certo per paura che siete rimasti là sotto, ma per difendere la vostra patria. Nessuno di voi è morto invano. Nessuno. E quelli che sono ammattiti? A che categoria appartengono gli scemi di guerra? Anche loro hanno perso la ragione eroicamente. Gli scemi di guerra? Sì, mamma. Gli scemi di guerra. È una brutta espressione. Ma è così che vengono chiamati quelli che alla fine della grande guerra, dopo mesi di trincea, sono impazziti finendo nei manicomi. Scemi di guerra, capisci? Scemi. Diventati scemi per aver vissuto sotto l'incubo dell'artiglieria. Scemi per essere stati d'inverno al freddo gelido del Carso, sferzato dalla bora. Scemi per essere stati d'estate sotto i raggi brucianti del sole, che rendevano incandescenti i caschi. Scemi perché il nemico scagliava gas tossici e per difendersi c'era solo da mettere davanti alla bocca un panno imbevuto di acqua e urina. Scemi per il terrore di essere colti dalla cachessia. Scemi per essersi sentiti soli, lontani dalle famiglie, sporchi, puzzolenti, malnutriti. E che cosa hanno ottenuto questi scemi di guerra una volta ricoverati in manicomio? Una terapia a base di camicie di forza. Questa è stata la ricompensa per il senno perduto. Una collezione di camicie di forza. Nient'altro. Carne da macello. Ecco come erano considerati i fanti. Ma i comandanti, i generali, che cosa facevano per proteggerli? I nostri comandanti? I generali dell'esercito regio sono i nostri peggiori nemici. Non gli austriaci, non i tedeschi, ma loro! Quelli che hanno in mano le vite dei soldati semplici e con quelle vite ci giocano. Io sono qui da un anno sull'altipiano ad Asiago. In un anno ho visto il volto peggiore della guerra. Ordini assurdi. Decisioni folli, strategie sbagliate, presunzione, incapacità, perfidia, sadismo. Non posso crederci. Un giorno il nostro battaglione è andato a finire in un avvallamento, esponendosi all'esercito austriaco come un bersaglio di facile mira. Gli austriaci però hanno avuto pietà e non hanno sparato. Ma il generale ha ordinato al battaglione di riprendere l'avanzata. All'attacco! All'attacco! A quel punto gli austriaci hanno cominciato a sparare. È stato un massacro. Li hanno uccisi quasi tutti. La sera, al rientro in caserma, il generale ha stretto la mano a tutti gli ufficiali sopravvissuti e ha promesso al capitano una medaglia d'onore. Il capitano ha finto di essere soddisfatto, ma quando il generale è uscito dalla stanza è scoppiato in un mare di lacrime. Si sentiva responsabile della morte dei suoi uomini. Io mi uccido, ha detto. Bisogna uccidersi. Parole terrificanti, parole fredde. Parole dure, parole disanimate, parole che non possono e non devono esistere nel progetto di vita di qualsiasi essere umano. Parole che sgorgavano dal petto di gente che era la macchina, che eseguiva l'ordine di una persona che stava più in alto. Quelli che comandavano la guerra non la vivevano. Erano vigliacchi, traditori, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. Loro azionavano solo quella terribile macchina da guerra. Poi il resto veniva da sé. Io non ce la faccio più. Io non ci voglio morire in guerra. Io voglio tornare a casa, nella mia terra, a coltivare la terra. E voglio dimenticare quest'anno passato in trincea. Io voglio dimenticare quest'anno passato all'inferno. Erano tutti così, comandanti dell'esercito regio. Tutti fanatici, cinici, sadici guerrafondai. Quasi tutti, non tutti. Nel corso dell'anno trascorso sull'altopiano ho conosciuto anche ufficiali consapevoli, militari che avevano imparato a odiare la guerra. Ne ricordo uno in particolare. Venne a trovarmi in tenda, una sera. Con lei posso parlare francamente? Ma certo, per me è un vero piacere. Io sono un ufficiale sbagliato. Sinceramente, ho io la faccia di un ufficiale di carriera? Ho fatto 2 anni di università in lettere, sempre il primo del corso. Quella era la mia carriera. Ma mio padre aveva un chiodo nella testa, che dico un chiodo, una sciabola. Mi ha obbligato a entrare alla scuola militare. Mio padre era colonnello, mio nonno generale, mio bisnonno generale, mio trisnonno, insomma. Io ho in corpo 8 generazioni di ufficiali in linea diretta. Mi hanno rovinato. Aveva il grado di tenente colonnello, parlava lentamente e beveva lentamente da una borraccia. Beveva a sorsi, così come si centellina una tazza di caffè. Posso continuare? Sì, signore. Io mi difendo bevendo. Altrimenti sarei già in manicomio. Contro le scelleratezze del mondo, un uomo onesto si difende bevendo. È da oltre un anno che io faccio la guerra, un po' su tutti i fronti, e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi, è orribile. È per questo che ci ubriachiamo tutti, da una parte e dall'altra. Se tutti, di comune accordo, lentamente smettessimo di bere, forse la guerra finirebbe. Ma se bevono gli altri, bevo anch'io. Vede, io ho una lunga esperienza. Non è l'artiglieria che ci tiene in piedi a noi di fanteria. Abolisca l'artiglieria. Da tutte e 2 le parti la guerra continua. Ma provi ad abolire il vino e i liquori. Provi un po'. Nessuno si muoverà più. L'anima del combattente di questa guerra è l'alcol. Il primo motore è l'alcol. Perciò i soldati, nella loro infinita sapienza, la chiamano benzina. Si alzò. Il suo viso pallido si illuminò di un sorriso. Da un mucchio di carte tirò fuori un libro, lo agitò di fronte agli occhi dei soldati e chiese: «Avanti! Che libro è? Indovinate!» L'arte di prepararsi i liquori da se stessi. «Capirà! Con questa maledetta guerra in montagna non possiamo trasportare con noi neppure 2 bottiglie. Così io posso prepararmene quante ne voglio. Certo, c'è una bella differenza fra l'alcol distillato e quello in polvere. Ma meglio così che niente. Mi creda, l'arte di prepararsi liquori vale l'arte della guerra. Se tutti, di comune accordo, lealmente smettessimo di bere, forse la guerra finirebbe. Quando l'ora del raggio s'avvicina, il cannone che spara sulla cucina, il cannone suona a mezzogiorno. Basta! Basta! Com'è desolante. Com'è triste quello che mi raccontate. Ma davvero tutto è andato in questo modo? È stata la guerra dei comandanti incapaci, degli ufficiali alcolizzati, degli ordini deliranti. Non ci credo. Sul Carso, lungo le sponde del Piave, c'erano anche i fanti, i soldati semplici. Sono loro che hanno fatto la storia. Parlatemi di loro, per favore. Parlatemene, perché è di loro che vado fiera. È per rendere omaggio a loro che adesso sono qui. Io ero tra quei soldati semplici, bersagliere, con la piuma sull'elmetto. Signora, sono morto qualche giorno dopo suo figlio, il 6 agosto del 1916. Era un pomeriggio. Ci sono volute 3 pallottere per abbattermi. La prima non ricordo neppure dove mi colpì, le altre 2 al petto. Ma sono morto urlando, a fronte alta, mentre andavo zoppicando all'assalto. Zoppicavo perché qualche anno prima avevo perso la gamba sinistra, in tempo di pace. Mi era rimasta tra gli ingranaggi di una locomotiva durante un rifornimento d'acqua. Facevo il ferroviere, o meglio, il fuochista, dopo aver fatto il mozzo sulle navi commerciali. Me l'hanno tagliata tutta la gamba sinistra, fin quassù, all'inguine. Ma che importava? Ho continuato a vivere come prima, facendo le stesse cose di prima. La bicicletta, per esempio. Avrei dovuto lasciarla perché avevo una gamba in meno? Niente affatto. L'ho presa e sono andato da Roma a Parigi. Una follia? No, soltanto l'inizio del giro del mondo. Perché ho continuato a pedalare. Ho pedalato fino ad arrivare in Lapponia, poi in Russia, in Polonia. E l'anno dopo sono andato in bicicletta fino ad Alessandria d'Egitto. Non avevo voglia di arrendermi. Enrico Toti non si è mai arreso. Quando scoppiò la guerra aveva 32 anni. Si presentò volontario, fece 3 domande e le respinsero tutte, ma partì lo stesso. Quando arriverò al fronte non potranno mandarmi indietro. Così cavalcò la sua bicicletta, la portò da Roma, dove era nato, a Cervignano del Friuli, andò in mezzo ai fanti e fu accolto come volontario civile addetto ai servizi non attivi. Ma figuratevi, servizi non attivi. Saltava in bicicletta e faceva la spola dal comando alle trincee. Tanto ha fatto che dopo un po' il duca d'Aosta in persona lo ha accontentato, facendolo entrare formalmente tra i bersaglieri ciclisti del 3° battaglione. Aveva 34 anni e la sua vita stava per finire. L'hanno mandato in prima linea, a combattere con una gamba sola, all'assalto con una gamba sola. Era il 6 agosto 1916, primo pomeriggio. Il battaglione puntava a raggiungere Monfalcone. Eravamo arrivati a quota 85. Io ero tra i primi assalitori, avevo la gruccia, ma correvo come i miei compagni, anche più veloce di molti di loro. Ho fatto 50 metri, forse 60 prima di essere colpito. Sono caduto, ma non ho perso né la gruccia né le armi. Si rialzò, gettò 2 bombe contro gli austriaci e lo colpirono una seconda volta al petto. Mi hanno colpito una seconda volta, sono caduto di nuovo. Un commilitone mi ha raggiunto dicendomi di stare giù. Mi ha afferrato l'unica gamba, ma non è riuscito a fermarmi. Si rialzò, gettò 2 bombe contro gli austriaci e lo colpirono una seconda volta. Mi hanno colpito al petto, sono caduto di nuovo. Un commilitone mi ha raggiunto dicendomi di stare giù. Mi ha afferrato l'unica gamba, ma non è riuscito a fermarmi. Si alzò di nuovo, lanciò un'altra bomba a mano e poi arrivò la 3ª pallottola. E lì ho capito che sarei morto. Ma a loro non gliel'ho detto. Anzi, ho urlato, io non muoio! E prima di cadere, ho scagliato anche la gruccia. Una morte da eroe. Tutti i giovani che sono andati volontari al fronte sono stati degli eroi. Ma sul Carso non c'erano soltanto i volontari, mamma. C'era anche chi la guerra la odiava, ma era stato obbligato a farla lo stesso. Come quel giovane sottotenente che veniva da Stella, un paesino ligure, socialista, neutralista, nemico di ogni forma di violenza, venne chiamato alle armi appena ebbe compiuto 20 anni, nel 1916. Era studente, sapeva leggere e scrivere, al contrario di molti suoi coscritti, e per questo gli fecero fare un corso accelerato per diventare ufficiale. Prese il grado di sottotenente dei mitraglieri e fu subito mandato in trincea sull'Isonzo, tra il fango e i pidocchi, come avrebbe detto più tardi. Quel giovane socialista di Stella Ligure odiava la guerra, ma non riusciva a odiare gli austriaci che erano giovani della sua stessa età. Per questo, quando il suo reggimento, nell'agosto del 1917, assaltò il nemico sui monti Descla e Jelenik, non fece vittime, ma soltanto prigionieri. Fu proposto per la medaglia d'argento al valor militare, ma il riconoscimento non gli arrivò mai, perché erano note le sue idee anti-interventiste. I generali temevano che il ragazzo di Stella Ligure l'avrebbe rifiutata. Lui non avrebbe mai accettato una medaglia con inciso la frase «A Sandro Pertini, eroe di guerra». Lui quella medaglia l'avrebbe rifiutata, dicendo di darla piuttosto ai martiri di Caporetto. Caporetto, mamma. Caporetto. Io ringrazio Dio di avermelo risparmiato facendomi morire un anno prima. Caporetto è stato un massacro, un'idiozia, una vergogna. Poveri ragazzi mandati allo sbaraglio, male armati, derisi dai loro stessi comandanti. Abbiamo perso per la codardia dei nostri soldati. Hanno avuto il coraggio di dire gli ufficiali che li avevano mandati allo sbaraglio. 12.000 morti in due giorni a Caporetto. 12.000 morti in due giorni. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Lui, non D'Annunzio, che in trincea non c'è mai stato, non Montale, che c'è stato pochi mesi da ufficiale, l'ultimo anno, senza trovare l'ispirazione per una sola poesia. Ungaretti sì. Giuseppe Ungaretti la guerra l'ha vissuta, è stato sul Carso, in trincea, c'è stato 2 anni, volontario, italiano, italianissimo. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Lo strazio nel cuore. Sapessi com'è lacerato il mio. Soltanto uno è il conforto, che alla fine, dopo Caporetto, dopo il Carso, dopo Lisonzo, dopo Asiago, c'è stato il Piave. E poi Vittorio Veneto, l'ingresso dei bersaglieri a Trieste, gli applausi, la vittoria. Alla fine la guerra l'abbiamo vinta, Tonio. No, mamma, ti sbagli. Non ha vinto l'Italia. Perché le guerre non hanno mai un vincitore. Dalle guerre si esce sempre sconfitti, tutti sconfitti. Non ha vinto nessuno, nessuno. Ora vai, mamma, fai il tuo dovere. Compi quel gesto che ti è stato chiesto di fare. Fallo per te, per trovare la tua pace. Fallo per i miei compagni che non sono mai tornati a casa. Fallo per me. Lasciami andare. Scegli il corpo da tumulare al Vittoriano. Onora il milite ignoto. L'ora è giunta. Sì, Tonio mio. L'ora è giunta. Farò la mia scelta. E anche dopo le tue parole scoraggianti rimango ugualmente fiera di essere stata prescelta per questo sacro compito. Lo farò per rendere omaggio a te, ma anche per i 600.000 morti italiani, per le vedove, per i genitori che hanno perso i figli, per i figli che hanno perso i genitori, per chi ha perso i fratelli, per chi è andato in guerra volontario e per chi vi è stato costretto, per chi è morto per mano del nemico e per chi è stato stroncato dal tifo, dalla setticemia, dalla dissenteria, per chi è tornato a casa senza una gamba, senza un braccio, un occhio, per chi è stato fatto prigioniero, per chi ha disertato, per i martiri, per gli irredenti, per chi è stato ucciso dal cannone, per chi è stato ucciso dal fuoco di un cecchino, per chi è stato avvelenato dai gas, per chi ha perso la ragione, per chi è morto invocando Dio e per chi l'ha maledetto. Lo farò per l'Italia, perché questa stupida guerra sia stata l'ultima guerra. Si sta come d'autunno. Sugli alberi, le foglie.